Ad alta voce. Piero Baldini legge Grandi speranze di Charles Dickens. Avevo 23 anni. Nessun'altra parola era giunta ad illuminarmi sulle mie speranze. E il giorno del mio compleanno era passato da una settimana. Da più di un anno avevamo lasciato la locanda di Barnard e abitavamo nel quartiere del Temple, in alcune camere al Garden Court, vicino al fiume. Il signor Pocket ed io avevamo posto termine da qualche tempo al nostro rapporto originario, restando però ottimi amici. Nonostante la mia incapacità di dedicarmi assiduamente a qualche cosa, derivante, lo spero, dall'irregolare e disordinata amministrazione delle mie finanze, avevo il gusto della lettura e leggevo regolarmente ogni giorno per un certo numero di ore. La situazione di Herbert continuava a migliorare e la mia era quale l'ho descritta alla fine del capitolo precedente. Herbert era andato a Marsiglia per affari e pertanto ero rimasto solo e molto malinconico per questa solitudine. Depresso ed ansioso, sempre sperando che l'indomani o la settimana seguente mi avrebbero chiarito la situazione, e sempre deluso, sentivo tristemente la mancanza del volto allegro e della pronta comprensione del mio amico. Anche il tempo era brutto, tempestoso e piovoso. Piovoso e tempestoso. Fango, fango, fango. In tutte le strade. Leggevo, con l'orologio sul tavolo, poiché mi ero proposto di chiudere il libro alle 11. Quando lo chiusi, i rintocchi del campanile di San Paolo e di tutte le altre chiese di Londra, alcuni anticipando, altri all'unisono, altri ancora ritardando, segnarono quell'ora. Il suono era stranamente spezzato dal vento, ed io stavo ad ascoltare, osservando come il vento lo assalisse e lo frantumasse, allorché mi giunse all'orecchio il suono di un passo sulla scala. Come una strana follia nervosa mi facesse trasalire e ricollegare paurosamente quel suono col passo della mia sorella morta. Non è cosa che importi. Un attimo dopo era cessato. Rimasi ancora in ascolto e di nuovo sentii che qualcuno saliva incespicando. Ricordando allora che le luci sui pianerottoli erano spente, presi la lampada con cui leggevo e andai alla sommità della scala. La persona, chiunque essa fosse, si era fermata nel vedere la mia lampada, poiché tutto taceva. «C'è qualcuno lì sotto?» chiamai guardando giù. «Sì!» disse una voce nel buio. «A che piano volete andare?» «All'ultimo, dal signor Pip. Sono io. È successo qualcosa?» «Nulla!» rispose la voce. E l'uomo venne avanti. Tenevo la lampada sporta sulla ringhiera delle scale ed egli entrò lentamente nel suo fascio di luce. Era una lampada schermata per far luce sopra un libro dal raggio molto ristretto, così che egli vi entrò per un solo istante e ne uscì subito. Ma in quell'istante ebbi il tempo di vedere un volto che mi era sconosciuto e che guardava in su con un'indescrivibile espressione di commozione e di gioia per avermi visto. Seguendo con la lampada l'uomo che si avvicinava, scopersi che egli indossava dei vestiti pesanti, marruzzi, come chi viaggi per mare, che aveva i capelli lunghi, d'un color grigio ferro, e doveva essere sulla sessantina. Infine che si trattava di un individuo muscoloso, saldo sulle gambe, abbronzato per essere rimasto esposto alle intemperie. Quando salì gli ultimi due gradini e il chiarore della mia lampada ci illuminò entrambi, vidi con attonita stupefazione che egli mi tendeva tutte e due le mani. «Che volete, per favore?» gli chiesi. «Che voglio?» ripeté fermandosi. «Oh, sì, sì, vi spiegherò cosa voglio, con il vostro permesso.» «Volete entrare?» «Sì, vorrei entrare, signorino.» Gli avevo rivolto quella domanda in un tono piuttosto inospitale, perché mi aveva indispettito quella specie di riconoscimento felice e soddisfatto che ancora gli brillava in viso. Mi aveva indispettito perché sembrava implicare tacitamente che egli si aspettava di vedersi corrisposto, ma lo feci entrare nella stanza che avevo appena lasciato. e messa la lampada sul tavolo gli domandai con la massima cortesia che mi fu possibile di spiegarsi. L'uomo si guardò attorno con un'aria stranissima, un'aria di piacere meravigliato, come se egli fosse in qualche modo partecipe delle cose che ammirava. Si tolse un ruvido giaccone e il cappello e vidi allora che la sua testa era grinzosa e calva e che la lunga capigliatura grigio ferro cresceva solo ai lati. Ma non vidi nulla che spiegasse minimamente chi egli era. Pure un attimo dopo mi tese una volta ancora tutte e due le mani. «Che cosa volete?» chiesi, cominciando a pensare che fosse un pazzo. Smise di botto di guardarmi e lentamente si passò sulla testa la mano destra. «Quale delusione per un uomo!» esclamò con voce roca e accento volgare. «Che ha atteso per tanto tempo ed è venuto da tanto lontano. Ma non ti si può biasimare per questo. Nessuno dei due deve essere biasimato per questo. Ti spiegherò tra mezzo minuto. Pazienta mezzo minuto, ti prego.» Sprofondò in una poltrona dinanzi al fuoco e si coperse la fronte con le grosse mani abbronzate dalle vene turgide. Lo osservai allora attentamente e indietreggiando un pochino, ma senza riconoscerlo. «Non c'è nessuno qui vicino?» chiese guardando al di sopra della sua spalla. «Perché mi fate questa domanda, voi un estraneo, che venite in casa mia a quest'ora?» «Sei un tipo in gamba!» ribatté scuotendo il capo con un affetto evidente ad un tempo del tutto incomprensibile ed esasperante. «Sono contento che tu sia diventato un tipo in gamba, ma non trattarmi così dall'alto, poi ti dispiacerebbe di averlo fatto.» Abbandonai il mio atteggiamento poiché in quell'attimo lo riconobbi. Se vento e pioggia avessero disperso tutti gli anni passati, tutti gli oggetti reali che ci circondavano e ci avessero trasportato nel cimitero dove la prima volta ci eravamo trovati viso a viso in condizioni così differenti, non avrei potuto riconoscere il mio forzato più chiaramente di quanto lo riconoscevo ora, lì, seduto nella poltrona dinanzi al fuoco. Non c'era nessun bisogno di togliersi una lima di tasca e mostrarmela, di togliersi il fazzoletto dal collo e attorcigliarlo intorno al capo, nessun bisogno di abbracciarsi con ambedue le braccia e girare per la stanza, rabbrividendo e guardandomi per farsi riconoscere. Lo riconobbi prima ancora che egli ricorresse a questi mezzi, sebbene un istante prima non avessi il minimo sospetto della sua identità. Tornò dove io stavo e di nuovo mi tese tutte e due le mani. Non sapendo che fare, poiché per la stupefazione avevo perso il controllo di me stesso, riluttante, gli tesi le mani. Egli le afferrò con calore, le portò alle labbra, le baciò e ancora le trattenne. «Hai agito nobilmente, ragazzo mio», disse. «Nobile Pip, ed io non l'ho mai dimenticato.» Ebbe un moto che mi fece quasi temere che volesse abbracciarmi. Gli posi una mano sul petto e lo respinsi. «Fermatevi», dissi, «allontanatevi. Se voi mi siete grato per quanto ho fatto quando ero bambino, spero che abbiate dimostrato la vostra gratitudine cambiando genere di vita. Se siete venuto qui per ringraziarmi, non era necessario. Eppure mi avete scovato. Ci deve essere quindi qualcosa di buono nel sentimento che vi ha portato fin qui. Ed io non vi respingerò. Ma certamente dovete capire che io...» La mia attenzione fu tanto colpita dalla singolarità del suo sguardo fisso su di me che le parole si spensero sulle labbra. «Dicevi?» Egli osservò mentre ci guardavamo in silenzio. «Che certamente io devo capire. Che cosa devo certamente capire?» «Ch'io non posso desiderare di rinnovare quella conoscenza accidentale che abbiamo fatta tanto tempo fa, in circostanze così diverse. Sono felice di pensare che vi siate pentito e redento. Sono felice di dirvelo. Sono felice che, pensando che io meritassi di essere ringraziato, siate venuto a ringraziarmi. Però le nostre vie divergono. Siete bagnato e sembrate stanco. Volete bere qualcosa prima di andarvene?» si era rimesso il fazzoletto intorno al collo, lasciandolo lento, e in piedi, mordendone un lungo lembo, mi osservava con occhio penetrante. «Penso», rispose con ancora il lembo del fazzoletto in bocca e sempre osservandomi, «che vorrò bere. Te ne ringrazio, prima di andarmene». Un vassoio era pronto sopra un tavolino, in un angolo. Lo portai sul tavolo vicino al fuoco e gli chiesi che volesse. Toccò una delle bottiglie senza guardarla o dir parola e gli preparai un po' di rum e acqua calda. Cercavo di farlo con mano ferma, ma il suo sguardo fisso su di me, mentre egli si appoggiava all'indietro nella poltrona, con il lungo lembo del fazzoletto tra i denti, evidentemente dimentico di esso, mi rendeva molto difficile controllare i movimenti. Quando alla fine gli porsi il bicchiere, vidi con stupore che i suoi occhi erano pieni di lacrime. Fino a quel momento ero rimasto in piedi, per non nascondere il mio desiderio che se ne andasse. Ma quella commozione mi intenerì e provai un senso di rimorso. «Spero», dissi versandomi in fretta qualcosa in un bicchiere e tirando una sedia vicino alla tavola, «che non penserete davvero che io abbia voluto essere aspro poco fa. Non ne avevo alcuna intenzione. E se l'ho fatto, scusatemi. Vi auguro di star bene e di essere felice». Mentre portavo il bicchiere alle labbra, egli gettò uno sguardo sorpreso sul fazzoletto che gli cadde di bocca e mi tese una mano. Gli diedi la mia. Ed allora egli bevve, passandosi la manica sulla fronte e sugli occhi. «Come vivete?» gli domandai. «Ho fatto il contadino, l'allevatore di bestiame ed altri mestieri ancora, lontano nel nuovo mondo. In luoghi distanti da qui molte migliaia di miglia di acqua tempestosa. Spero che vi sia andata bene». «Mi è andata meravigliosamente bene. Molti altri sono andati laggiù, e ad essi pure è andata bene. Ma a nessuno come a me. Sono rinomato per questo». «Mi fa piacere». «Spero che tu possa dire altrettanto di te, mio caro ragazzo». Senza indugiare a cercare di capire quelle parole o il tono con cui erano state dette, passai un argomento che mi era appena venuto in mente. «Non avete più visto quel messaggero che mi mandaste una volta?» domandai. «Dopo che egli ebbe svolto la sua ambasciata?» «Non l'ho mai più visto, né era probabile che lo vedessi». «Venne fedelmente e mi portò i due biglietti da una sterlina». «Allora ero un povero ragazzo, come sapete». «E per un povero ragazzo erano una piccola sostanza». «Ma come per voi, da allora è andata bene anche per me. E dovete permettermi di restituirvele. Potrete destinarle a qualche altro ragazzo povero». E tirai fuori il mio borsellino. Egli rimase a osservarmi mentre ponevo il borsellino sul tavolo e l'aprivo, e mentre ne toglievo i due biglietti da una sterlina. Erano puliti e nuovi. Li spiegai e glieli diedi. Sempre tenendomi d'occhio, li mise uno sopra l'altro. Li ripiegò nel senso della lunghezza, li arrotolò, accese il rotolo alla lucerna e gettò le ceneri sul vassoio. «Posso essere così ardito?» disse allora con un sorriso che rassomigliava a una smorfia e una smorfia che rassomigliava a un sorriso. «Da chiederti in qual modo ti è andata tanto bene, da quando ci incontrammo in quella palude deserta e gelida?» «In qual modo?» «Già». Vuotò il bicchiere, si alzò e rimase in piedi accanto al camino, la sua mano abbronzata e pesante appoggiata alla caminiera. Mise un piede sulla sbarra per farlo asciugare e riscaldarlo, finché dallo stivale bagnato si levò del vapore. Ma egli non abbassò mai lo sguardo su di esso, né sul fuoco, ma lo tenne ostinatamente fisso su di me. Fu soltanto allora che cominciai a tremare. Le mie labbra si schiusero per formulare delle parole, ma non ne uscì alcun suono. Mi sforzai di dirgli, sebbene non riuscissi a farlo distintamente, che ero stato prescelto quale erede di una sostanza. «Potrebbe un povero diavolo come me chiedere quale genere di sostanza?» disse. Balbettai, «non lo so». «Potrebbe un povero diavolo come me chiedere a chi appartiene questa sostanza?» disse ancora. Di nuovo balbettai, «non lo so». Forse posso cercar di indovinare, disse il forzato. Qual è il tuo reddito da quando sei diventato maggiorenne? Vediamo la prima cifra. Un 5? Con il cuore che batteva come un pesante martello con ritmo irregolare, balzai in piedi e rimasi con la mano appoggiata allo schienale della seggiola, fissandolo sconvolto. E quanto a un tutore? Egli continuò. Avrà dovuto esserci un tutore o qualcuno del genere finché eri minorenne. Un legale, forse. Ora vediamo la prima lettera del nome di quel legale. Non sarebbe per caso una J? Tutta la verità sulla mia posizione mi apparve in un baleno. E le delusioni, i pericoli, la vergogna, le conseguenze di ogni genere che ne derivavano, si affollarono in tal numero alla mia mente da accasciarmi e da togliermi quasi il respiro. Mettiamo, egli riprese, che il cliente di quel legale il cui nome comincia per J, e potrebbe essere Juggers, mettiamo che sia arrivato per mare a Portsmouth, e sia sbarcato e abbia voluto venire a trovarti. Eppure mi avete scovato, hai detto poco fa. Ebbene, come ti ho scovato? Beh, ho scritto da Portsmouth a una persona a Londra per essere informato del tuo indirizzo. Il nome di quella persona, beh, è Wemmick. Non avrei potuto pronunciare una sola parola, neanche se si fosse trattato di aver salva la vita. Rimasi lì, una mano sullo schienale della seggiola e l'altra sul petto, che mi sembrava di soffocare. Rimasi lì guardandolo smarrito, e poi dovetti aggrapparmi alla seggiola perché la stanza prese a rotearmi intorno. Egli mi afferrò, mi attirò sul divano, mi appoggiò ai cuscini e si mise in ginocchio dinanzi a me, portando quel volto che ora rammentavo bene e che mi faceva rabbrividire vicinissimo al mio. Sì, Pip, ragazzo mio caro, sono io che ho fatto di te un gentiluomo. Giurai quella volta che se mai avessi guadagnato una guinea, quella guinea sarebbe stata tua. Giurai in seguito che se mai io avessi speculato e fossi diventato ricco, tu saresti diventato ricco. Ho fatto una vita dura perché tu potessi averla facile. Ho lavorato duramente perché tu potessi non essere costretto a lavorare. Ma che importa? Non credere che te lo dica perché tu debba considerarti obbligato verso di me. Niente affatto. Te lo dico perché tu sappia che quel povero cane miserabile perseguitato al quale tu hai salvato la vita, si è tanto elevato da poter fare di qualcuno un gentiluomo. E Pip, quel gentiluomo sei tu! L'orrore che provavo per quell'uomo, il terrore che ne avevo, la ripugnanza che mi faceva ritrarre da lui, non avrebbero potuto essere più forti se egli fosse stato una qualche terribile fiera. Guarda, guarda, Pip, io sono il tuo secondo padre! Tu sei mio figlio, più di un figlio per me. Ho risparmiato denaro solo perché tu lo spendessi. Quando facevo il guardiano di pecore in una capanna solitaria e non vedevo altre facce che quelle delle mie pecore, finché quasi dimenticai come fossero fatte quelle degli uomini e delle donne, io vedevo la tua. Quante volte ho lasciato cadere il coltello mentre mangiavo il pranzo o la cena per dirmi «Ecco di nuovo quel ragazzo che mi guarda mentre mangio e bevo». Laggiù ti ho visto molte volte distintamente, come ti avevo visto in quella palude nebbiosa. Che Dio mi faccia morire, dicevo ogni volta, e andavo fuori all'aperto per ridirlo sotto il cielo. Se il giorno in cui avrò libertà e danaro, non farò di quel ragazzo un gentiluomo. E l'ho fatto. Guardati attorno, ragazzo mio, guarda questo tuo alloggio. Non sarebbe degno di un lord. Ah, tu potrai gareggiare in ricchezza con dei lord e vincerli. Nell'entusiasmo del suo trionfo, e pur sapendo che ero stato lì lì per svenire, non si accorgeva di come io accoglievo le sue parole. Era il solo conforto che avessi. Guarda qui, continuò togliendomi di tasca l'orologio e osservando un anello che avevo al dito mentre io indietreggiavo al suo contatto, come se egli fosse un serpente. È d'oro, è una bellezza, proprio degno di un gentiluomo, direi. Un brillante circondato da rubini. Proprio degno di un gentiluomo, direi. Guarda che biancheria, raffinata. Guarda che vestiti, non ve ne sono di migliori. E anche i libri. Girava gli occhi attorno alla stanza. A centinaia sugli scaffali. E tu li leggi, vero? Ho visto che stavi leggendo quando sono entrato. Tu me li leggerai, caro ragazzo. E se sono in lingue straniere che io non capisco, sarò fiero, come se le capissi. Di nuovo mi prese ambedue le mani e se le portò alle labbra, mentre io sudavo freddo. Non c'è bisogno che tu parli, Pip, disse dopo essersi di nuovo passata la manica sugli occhi e sulla fronte, mentre in gola faceva quello schiocco che ricordavo così bene e mi appariva tanto più odioso per quella sua semplicità. Non puoi fare nulla di meglio che star zitto, ragazzo caro. Per te l'attesa di questo momento non è stata così lenta e lunga come lo è stata per me. Non eri preparato adesso come lo ero io. Ma non avevi mai pensato che potessi essere io? Oh, no, ribattei. Mai. Ebbene, vedi, ero io. È tutto da solo. Nessun'altra persona in tutto questo, se non il signor Jaggers e me. Nessun'altra persona? No, egli disse sorpreso. Chi altro avrebbe potuto esserci? Ragazzo mio, come ti sei fatto bello! Non c'è in qualche luogo un paio di begli occhi, eh? Non c'è in qualche luogo un paio di begli occhi a cui pensi? Oh, Estelle. Saranno tuoi, ragazzo caro, se il denaro li può comprare. Non che un signorino come te, così ben piantato come sei, non possa conquistarseli da solo, ma il denaro ti servirà di appoggio. Lasciami finire quello che ti stavo raccontando, ragazzo caro. Da quella capanna, da quel lavoro, ricavai del denaro lasciatomi dal mio padrone, che morì e che era stato pure un forzato. Acquistai la libertà e me ne andai per conto mio. In ogni piccola cosa in cui mi sforzai di riuscire, mi sforzavo per te. Che Dio la maledica, dicevo tutte le volte che mi mettevo a fare qualche cosa, se non è per lui. E tutto prosperò in modo meraviglioso. Come ti ho accennato poco fa, io sono rinomato per questo. Quei puri sangue dei signori che vivevano nelle colonie potevano coprirmi di polvere mentre camminavo. Cosa mi dicevo allora? Dicevo a me stesso, sto facendo di lui un gentiluomo migliore di quanto voi potrete mai essere. Quando uno di loro diceva all'altro, era un forzato pochi anni fa, e anche ora è un essere volgare, ignorante, anche se ha fatto fortuna. Cosa dicevo io? Dicevo a me stesso, se non sono un gentiluomo e non ho nessuna istruzione, possiedo chi ha l'una cosa e l'altra. Tutti voi possedete bestiame e terre. Ma chi di voi possiede un gentiluomo educato a Londra? Ecco come sono andato avanti. E sempre col pensiero fisso di venire un giorno a vedere il mio ragazzo e presentarmi a lui, proprio nel suo ambiente. Mi pose una mano sulla spalla. Rabbrividì al pensiero che, per quanto ne sapevo, quella mano era forse macchiata di sangue. Non mi fu facile, Pip, lasciare quei paesi, e non era prudente. Ma io tenni duro, e quanto più difficili erano le cose, tanto più tenevo duro, perché ero deciso, fermamente deciso. E alla fine ce l'ho fatta, caro ragazzo, ce l'ho fatta! Tentavo di raccogliere le idee, ma ero come stordito. Durante tutto questo tempo mi era sembrato di prestare più attenzione al vento e alla pioggia che a lui. Anche ora non riuscivo a separare la sua voce da quelle voci, anche se quelle erano forti. E la sua sommessa. Dove mi sistemerai? Egli chiese subito dopo. Devi mettermi in qualche posto, caro ragazzo. Per dormire? Mi informai. Sì. e dormire a lungo e a fondo, rispose. Perché per mesi e mesi sono stato sballottato, ammollato dal mare. Il mio amico e compagno, dissi alzandomi dal divano, è assente. Occuperete la sua camera. Ma non tornerà domani? No, dissi rispondendo quasi macchinalmente, nonostante ogni mio sforzo. Non domani. Perché vedi, ragazzo caro, disse abbassando il tono di voce e ponendo un lungo dito teso sul mio petto con un gesto impressionante, una certa precauzione è necessaria. Che volete dire precauzione? Per Dio, è questione di morte. Morte di chi? Sono stato condannato a rimanere laggiù a vita. Tornare indietro significa la morte. Ci sono stati fin troppi ritorni in questi ultimi anni. E certamente sarei impiccato se mi acchiappassero.